Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Si intitola Il viaggio d'inverno ed è l'ultimo romanzo di Amelino Tombo, pubblicato in Italia da Voland con la traduzione di Monica Capuani. Come sempre, la scrittrice belga ci propone una trama a tratti surreale. Un uomo, Zoil, ha deciso di dirottare un aereo e farlo schiantare a Parigi sulla Torre Eiffel. E questo per una delusione d'amore. Tutto si svolge nelle 4 ore di attesa in aeroporto, durante le quali Zoil scrive un diario per spiegare il suo gesto e raccontare così la sua passione per una ragazza, Astrolab, che però a sua volta ha una relazione sentimentale con un'altra donna. L'idea di un aereo dirottato che si schianta fa naturalmente pensare all'11 settembre, ma quanto Amelino Tombe si è ispirata a quell'episodio vero? Sentiamo che cosa ci ha risposto. Je ne m'en suis pas à proprement parler inspirée, mais je vis dans le même monde que vous, je suis obsédée tous les jours par le 11 septembre 2001. Non si può dire che mi sia proprio ispirata, ma viviamo in un mondo in cui siamo ossessionati dall'11 settembre. In questo libro ho dato una versione forse più veritiera di quanto accaduto. Sono convinta che i terroristi abbiano agito in seguito a delusioni amorose e sessuali. Dopo hanno trovato un pretesto ideologico. Nel mio romanzo, invece, il protagonista ha un'immagine positiva. Compie quel gesto perché non ha sintonia sessuale con la donna che desidera. Il fait ça parce que ça n'a pas marché sexuellement avec la femme qu'il désirait. È un'interpretazione piuttosto originale anche dell'11 settembre. C'est vrai qu'on n'a pas tellement entendu ce discours. D'autre part, je n'ai aucune preuve de ce que j'avance. È vero, non ho mai sentito un'interpretazione del genere e non ho elementi per provarla. Non sono una psicanalista. I terroristi, e non solo loro, avevano bisogno di un pretesto politico e ideologico per giustificare un atto di tale distruzione. Ma a me sembra assurdo, perché se avessero voluto fare veramente politica o religione, avrebbero fatto politica o religione. Chi può dire quale sia stata la vera motivazione? Chi può croire leur motivation? Zoil è innamorato di questa donna Astrolab. Che tipo di rapporto c'è fra i due? C'est un rapport très complexe entre Zoil et Astrolab. Il est clairement È un rapporto molto complesso fra Zoil e Astrolab. Lui è chiaramente innamorato di lei, nonostante la sua natura schizofrenica. Penso che lei sia più innamorata di quello che lui dice, ma capisce che si trova davanti a un matto. In realtà Astrolab preferisce Aliénor. Sì, la vera storia d'amore è tra lei e Aliénor. Ma nonostante ciò, è molto attratta da Zoil. Je pense qu'elle est quand même attirée par Zoil. L'immagine dell'amore che esce fuori da questo romanzo è anche un po' di un amore malato, folle. Dans l'immense majorité des cas, l'amour. Nella maggior parte dei casi l'amore è una cosa assurda. Bisogna avere un'enorme esperienza e una grande pazienza per riuscire a creare un amore che non sia distruzione totale. Penso che di solito, per la maggior parte dei giovani, il finale consueto dell'amore sia la catastrofe. Je pense que le schéma normal de l'amour pour la plupart des gens, c'est la catastrophe. Amore e morte. L'amour n'est pas mort, mais l'amore non è la morte, ma è in uno stato di coma all'ospedale. Il est dans le coma à l'hôpital. Noi veniamo a scoprire tutta la storia di Zoil perché lui scrive una sorta di diario mentre aspetta in aeroporto appunto di salire su questo aereo. Che cosa rappresenta questo diario per il protagonista? Donc Zoil sait que il lui reste exactement 4 heures. Zoil sa che gli restano 4 ore prima di salire sull'aereo e farlo esplodere. E in queste ultime 4 ore della sua vita ha bisogno di spiegare il suo gesto. È un bisogno tipicamente umano. Tutti abbiamo bisogno di spiegare, di trovare un senso. È una debolezza. Solo le persone molto forti non hanno bisogno di trovare spiegazioni. Ma noi non siamo così forti e quindi abbiamo bisogno di giustificazioni. Ma noi siamo tutti umani, siamo assez faibles e abbiamo sempre bisogno di tutto spiegare. Veniamo alle sue abitudini di scrittura. È vero che lei scrive a mano? J'écris uniquement à la main avec des stylos. Scrivo solo a mano con una penna e un quaderno. Quaderni meno belli di questi che avete. Con penne meno belle di queste che avete. E credo di essere l'unico scrittore di bestseller che porta al proprio editore dei quaderni scritti a mano. Le cahier écrit au stylo. E perché questa abitudine? Per stupidità tecnica profonda. Cioè non le piacciono i computer? Più che non piacermi, non ne sento il bisogno. Un'ultima domanda. In genere esce quasi un libro all'anno di Amelino Tombe. Ormai per lei è diventata un'abitudine, un appuntamento fisso? La véritable habitude consiste chez moi à être enceinte absolument tout le temps. La vera abitudine consiste nel sentirmi sempre incinta dei miei libri. Sono incinta del nuovo libro prima ancora di finire il precedente. Questo fa sì che io sia incinta tutto il tempo. Véritablement enceinte tout tout le temps. Insomma, i libri come figli. Sì, bambini molto numerosi, perché sono incinta per la 69esima volta. E questa era Melino Tombe, che parlava del suo ultimo romanzo, Il viaggio d'inverno, pubblicato da Voland. Veniamo ora a un giallo insolito, quasi alla Fruttero e Lucentini. Si intitola Il tartufo e la polvere, scritto da Stefano Quaglia e pubblicato da Marcos y Marcos. Inizialmente l'autore, che è un produttore di audiovisivi, aveva pensato alla sceneggiatura di un film. Poi si è reso conto che sarebbe stato un film molto costoso da realizzare e allora ha scelto di farne un romanzo, più economico, ma nel quale avrebbe anche potuto dare più spazio alla fantasia. Un giallo, dicevamo, condito con molta ironia, come ci racconta lo stesso autore. Sì, c'è ironia nella scrittura, ma non perché io ami descrivere le cose soltanto con ironia, ma ho pensato che tutto quello che sta dietro la storia, il pretesto, lo svolgimento, necessitasse di una scrittura piuttosto leggera e ironica, cioè un punto di vista non serioso. Non è assolutamente seriosa la storia e quindi pensavo che il tipo di scrittura dovesse seguirla, insomma, in qualche modo. La prima cosa particolare è l'arma del delitto, perché è un tartufo. Sì, un tartufo bianco, che quindi porta subito, anche se il delitto è compiuto a Milano, porta subito l'investigatore a recarsi nella zona da dove il tartufo proviene, un tartufo bianco di Alba, e quindi a venire a contatto con questo mondo che non conosce assolutamente. Come si fa ad uccidere con un tartufo? Quello lì non lo possiamo dire, perché sennò si capisce come va a finire. Però si può morire con un tartufo, sì, in gola in questo caso, sì. C'è un morto, e l'abbiamo già detto, sì, a causa di un tartufo, e quindi c'è anche una persona che indaga. Sì. Chi è l'ispettore Arnaboldi? L'ispettore Arnaboldi è una specie di investigatore, perché sicuramente un po' fuori dalla norma, è una persona che comunque mentre è lì a indagare si chiede se stia facendo il lavoro giusto oppure no. È prima di tutto assolutamente allergico a qualunque cibo più o meno sofisticato, è uno che vive da solo, vive di notte, qualunque schifezza la mangia, è un appassionato di maionese, ketchup, würstel e via dicendo. Tutto tranne che il tartufo, assolutamente. Mi sembra di capire. Sì, anzi, odio il tartufo al punto tale da star male quando ne sente il profumo. Questo è un altro delle ragioni per cui ho scritto. Mi è venuto in mente di scrivere una cosa sui tartufi, perché dividono assolutamente la popolazione. C'è chi lo ama alla follia, fa qualunque cosa, incluso spendere un sacco di soldi che costa per mangiarlo, a quelli che hanno proprio repulsione, non ci sono vie di mezzo. E allora mi è venuto in mente di avere un ispettore che compisse anche alla ricerca di questo del responsabile dell'omicidio un viaggio in queste terre che sono ricchissime di tradizione culturale. Di tradizione culturale non gastronomica, e si trovasse a che fare con persone che invece amano al suo contrario mangiare molto bene, e quindi facesse anche un po' un viaggio iniziatico all'interno di questo percorso, prima avendone assolutamente terrore, invece in qualche modo apprezzandone poi alcuni aspetti. Scrivere un giallo così, dicevamo prima, anche un po' ironico, insomma, più allegro del giallo tradizionale, è un modo per prendere in giro il giallo o per amarlo? No, io ho grande rispetto della letteratura gialla, della letteratura noir, no, forse per rispettarlo, nel senso che non mi sarei mai, quello che dicevo prima, non mi sarei mai sognato di scrivere un giallo serio con motivazioni psicologiche potenti con questo tono. Qua mi sembrava un po' tutto in qualche modo non da ridere, ma la voce critica, insomma, che sottostà un po' a tutti i vari episodi, le varie fasi, dovesse essere un po' disincantata da quel punto di vista. E questo era Stefano Quaglia, autore di Il tartufo e la polvere, pubblicato da Marcos y Marcos. Prima di chiudere, come sempre, vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Ma vi ricordo anche che ad agosto il Cacciatore di Libri andrà in onda in forma speciale. Stesso giorno, sabato, stessa ora alle 21, ma ci saranno 4 puntate dedicate al mondo dell'editoria. Come si arriva a pubblicare un libro, come si scrive un giallo, come si scrive per bambini e ragazzi, e poi il successo degli audiolibri. Anche per oggi è veramente tutto, un saluto da Alessandra Tedesco.